Consumi a picco 2012, l'anno peggiore dal dopoguerra. Migliorano i conti pubblici, ma con l'IMU pressione fiscale quasi al 45%. La campagna elettorale PD pronto alla collaborazione con Monti nel post voto. Mauro lascia il PDL stasera a Berlusconi a Porta a Porta. Liberati i 3 marinai italiani rapiti in Nigeria a dicembre, dimagriti ma stiamo bene. Coppa Italia dopo la Lazio in semifinale, stasera in campo Juventus e Milan. Una buona giornata dalla redazione da Anna-Rita D'Ambrosio. Dati economici dunque in apertura, dati che hanno un peso sulla campagna elettorale in corso. 2012, l'anno peggiore dal dopoguerra sul fronte consumi. Migliorano i conti pubblici. All'inizio di questo 2013 ci avevano avvisati, sarà un anno molto difficile per tutti, in particolare per le famiglie. Il problema è che alle spalle abbiamo 12 mesi che definire duri è dire poco. A novembre, secondo Confcommercio, i consumi sono scivolati, ancora una volta, quasi il 3% in meno rispetto all'anno prima. Manca solo dicembre, poi si potrà dire che il 2012 è stato l'anno nero delle spese dal secondo dopoguerra a oggi. Del resto anche l'Istat certifica che nel terzo trimestre dell'anno appena finito il reddito disponibile delle famiglie è sì leggermente aumentato rispetto ai 3 mesi precedenti, ma è calato di quasi 2 punti anno su anno. Con meno soldi a disposizione, è evidente, anche le spese diminuiscono e la flessione va di pari passo. Nulla si salva, non la domanda di servizi né gli acquisti di beni, anche gli alimentari calano e a ben guardare le riduzioni sono pesanti. L'unico segmento che continua a mostrare una dinamica positiva e qui viene fuori una vecchia passione degli italiani è quello relativo ai beni e servizi per le comunicazioni, con un più 4% annuo. Stabile la spesa per la cura della persona, dovuto però soprattutto ai costi legati alla salute, un consumo obbligato per tutti. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il bilancio dello Stato migliore di quello delle famiglie. Schiarite sui conti pubblici. Secondo i dati Istat, nei primi 9 mesi del 2012 si è registrato un rapporto tra indebitamento netto e PIL pari al 3,7%, in miglioramento di 0,5 punti rispetto al corrispondente periodo del 2011. Al miglioramento dei saldi ha contribuito soprattutto, riferisce una nota dell'Istituto, l'andamento positivo delle entrate tributarie, trainato proprio dall'IMU. Sale inoltre il peso delle entrate. Nei primi 9 mesi del 2012 l'incidenza sul PIL delle entrate totali è stata del 44,8%, dal 43,2% del corrispondente periodo del 2011. Ma sul fronte del fisco sulla casa c'è il rovescio della medaglia. Nonostante la cedolare secca, la lotta all'evasione non dà i frutti contro gli affitti in nero. Il gettito previsto per l'incasso dei proventi della nuova tassa è inferiore del 75% alle previsioni, secondo i dati delle finanze. Mancano 2 miliardi nel 2011, 3 nel 2012 e altrettanti per i prossimi 3 anni. 1 miliardo contro i 4 previsti. Chi già pagava l'IRPEF ha continuato a pagare la cedolare e il nero è rimasto. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questa dunque la situazione e i dati economici diffusi oggi che, come abbiamo detto, hanno un peso perché l'Italia è in campagna elettorale. In particolare le tasse e l'IMU sono al centro delle discussioni, con Berlusconi che parla di abolizione al primo Consiglio dei Ministri e Monti che ribadisce la necessità della scelta fatta. Di miglioramenti da apportare aveva parlato il Partito Democratico. Partiamo proprio dalle novità che riguardano il PD. Chiusa la partita delle liste, Pierluigi Bersani brinda e guarda ora alla campagna elettorale. Qualche polemica da parte degli esclusi naturalmente non è mancata, alla fine comunque il via libera è arrivato all'unanimità. Ora gli altri dovranno inseguirci, ha commentato soddisfatto il segretario democratico, che sottolinea come il 40% dei candidati sia rappresentato da donne, ma molti sono anche i giovani. Nelle liste figurano rappresentanti del sindacato, delle imprese, ma anche della società civile e del mondo cattolico, tra i nomi noti quelli dell'ex numero uno della CGIL Epifani, dell'ex direttore generale di Confindustria Galli e poi Pietro Grasso e il giornalista Corradino Mineo. Recuperate in extremis anche Paola Concia, paladina dei diritti degli omosessuali. Tra gli esclusi eccellenti invece c'è anche il braccio destro di Renzi, Roberto Reggi, e il montiano Stefano Ceccanti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Chiusa dunque la partita delle liste, ma le polemiche all'interno del Partito Democratico restano. In particolare quelle di oggi riguardano i rapporti con il Partito Socialista, il cui segretario Nencini ha minacciato di correre da soli. Dunque verrebbe meno l'alleanza tra PD e Partito Socialista. Dopo il voto, intanto, ancora aperture al dialogo da parte dei democratici verso Monti. E ospite di Alessandro Milan questa mattina, Piero Grasso è tornato sulla polemica, Piero Grasso che è candidato del Partito Democratico, è tornato sulla polemica di alcuni mesi fa, suscitata proprio da Radio 24 per il premio da dare a Berlusconi per le leggi contro la mafia. Sentiamo al microfono di Alessandro Milan cosa ha detto Grasso. Io ho l'onestà intellettuale di riconoscere, quando mi si chiede, cosa di buono si è fatto. Immediatamente, se si sente la registrazione, si sentono tutte le cose, le critiche che io ho fatto a tutta la politica. Quindi dice ha fatto qualcosa di buono, ma poi non ha fatto tante cose. La frase, allora gli diamo un premio? E certo, ho detto, ma per questo sì, perché effettivamente attraverso il ministro Alfano, il ministro della giustizia, abbiamo avuto delle leggi che ci hanno consentito di sequestrare qualcosa come 40 miliardi di euro di beni mafiosi in 4 anni. Cioè, voglio dire, abbiamo fatto un salto sotto questo profilo. Io ho l'onestà intellettuale di riconoscere. Poi per il resto ho criticato il codice antimafia, ho criticato la legge sulle intercettazioni che è stata bloccata, ho criticato tutta una serie di... Sì, insomma, dice, per alcune cose buone poi ha criticato. Cambiamo schieramento politico, dal Partito Democratico guardiamo al centro e dai Montiani. Quegli irresponsabili che mi hanno preceduto stavano portando il paese sull'orlo del precipizio, per questo ho dovuto aumentare le tasse. Mario Monti difende così le sue scelte a Palazzo Chigi, lanciando nello stesso tempo un duro affondo contro Berlusconi, e lo fa proprio dalle reti Mediaset, dove ieri è stato ospite per più di un'ora. Ma il professore, che si dice qui distante dalla destra e dalla sinistra, non risparmia parole dure anche contro quest'ultima, accusandola di essere freno per la crescita. Monti spiega di volersi mettere invece dalla parte della gente comune e della società civile, e il premier annuncia già i primi nomi che andranno a comporre le liste: il dirigente di Confindustria Alberto Bombassei, l'olimpionica di Scherma Valentina Vezzali, il direttore del Tempo Mario Secchi, il presidente del FAI Ilaria Borletti Buitoni. La squadra inizia dunque a prendere forma, anche se la trattativa interna alla coalizione di centro non è ancora chiusa. Il vertice notturno tra Monti, Casini e Fini non ha sciolto tutti i nodi. Fli chiede 5 senatori sicuri, mentre l'Udici ritiene di meritarne almeno 15, ma il professore chiede per la lista unica al Senato almeno il doppio dei posti dell'UDC, mentre difende la regola che a Montecitorio vadano solo esponenti della società civile. Probabile dunque un nuovo incontro dei centristi in giornata. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E passiamo al PDL, a Berlusconi, che oggi perde, come prevedibile, Mario Mauro, mentre prosegue il suo tour mediatico. Ci colleghiamo in diretta con la capitale, con la nostra Elisabetta Fiorito. Elisabetta. Sì, il PDL perde un altro pezzo e Mario Mauro, capogruppo del partito al Parlamento Europeo. Già nell'autunno scorso Mauro si era detto contrario a una ricandidatura di Silvio Berlusconi, schierandosi a favore del premier Mario Monti. Oggi l'annuncio, durante una riunione del gruppo del Partito Popolare Europeo con una standing ovation, il parlamentare lascia gruppo e partito, ma i malumori per l'accordo con la Lega non mancano nemmeno all'interno del PDL. Un'intesa, spiega il capogruppo Fabrizio Cicchitto, che comporta sacrifici, si è pagato un prezzo, se vinceremo si aprirà il problema del premier. Berlusconi ha proposto Alfano, Maroni, Tremonti, in genere il candidato lo esprime il partito più votato, precisa Cicchitto. Ieri, ricordiamo, il cavaliere ospite di 8,5 ha attaccato sull'IMU, promettendo comunque di mantenerla per i più ricchi come lui, che ha versato 300.000 euro, e sui giudici donna di Milano colpevoli della sentenza di divorzio su Veronica Lario. Nella Lega invece spicca la candidatura di Umberto Bossi, che verrà inserito nelle liste elettorali delle politiche insieme a Roberto Calderoli. Per il momento qui da Roma è tutto, per studio. Grazie Elisabetta, e noi da Roma passiamo a Milano, perché lo avete sentito, ieri Berlusconi in TV ha fatto riferimento anche alla causa con la moglie Veronica, attaccando i giudici di Milano, giudici donne, giudici che oggi hanno risposto. Noi ci colleghiamo con il Tribunale di Milano con la nostra Raffaella Calandra. Raffaella. Sì, giudici di Milano contro gli attacchi di Silvio Berlusconi. I vertici del Palazzo di Giustizia Meneghino respingono con fermezza ogni insinuazione e rivendicano l'imparzialità delle proprie decisioni, come quella appunto sulla sentenza di divorzio tra il cavaliere e Veronica Lario. Femministe e comuniste, aveva definito ieri l'ex premier le 3 giudici donne della Tribunale Civile che hanno stabilito il versamento di circa 100.000 euro al giorno, ossia 3 milioni al mese, da parte di Berlusconi all'ex consorte. È tutti nota la diligenza e la capacità professionale delle giudici, scrivono i presidenti del Tribunale Livia Pomodoro e della Corte d'Appello Giovanni Canzio in un comunicato in cui da un lato ricordano le raccomandazioni del Consiglio europeo di evitare ogni espressione di dileggio che possa compromettere il rispetto sostanziale delle decisioni, scrivono, e dall'altra la possibilità anche di impugnare i provvedimenti giudiziari di primo grado, compreso questo. Il clima dunque si arroventa di nuovo intorno alla giustizia ed è destinato solo a peggiorare nei prossimi giorni, anche con l'arrivo nei processi Ruby, Unipol e Mediaset a carico di Silvio Berlusconi di passaggi cruciali. E per ora dal Tribunale è tutto. Grazie alla nostra Raffaella Calandra. Chiudiamo la pagina politica come di consueto con il punto di Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Il fatto che la campagna elettorale si stia avvitando intorno all'IMU, la tassa sulle case, è forse inevitabile, ma anche preoccupante. Inevitabile perché è un tema molto sentito dagli italiani, specie in queste settimane in cui si è pagato il balzello. Preoccupante perché rischia di portare il dibattito tutto sul terreno della demagogia elettorale, specie dopo il rilievo della Commissione europea, rilievo poi ridimensionato e corretto ieri sera, c'è davvero il pericolo di una grande confusione. Sia chiaro, se le forze politiche si confrontassero per rendere meno ingiusto e vessatorio il sistema fiscale, per immaginare insomma un diverso rapporto tra lo Stato e il contribuente, l'occasione sarebbe anche utile. Purtroppo l'esperienza insegna che le campagne elettorali non sono mai il momento adatto per una discussione concreta e seria. Sono invece il tempo delle facili promesse, altrettanto facilmente disattese dopo il voto. Elezioni nazionali che condizionano e non poco anche il voto regionale, riflettori puntati in particolare sulla Lombardia, regione decisiva ai fini della ritrovata alleanza tra Berlusconi e la Lega. Gabriele Albertini sarebbe tentato dalla candidatura nella lista civica di Monti in Lombardia. Il premier gli avrebbe offerto un posto sicuro nella lista per il Senato, che sarà guidata in Lombardia dal giuslavorista Pietro Ichino. Una mossa che, se dovesse trovare conferma, al momento non ce l'ha, quantomeno indebolirebbe la candidatura di Albertini alla regione Lombardia a favore di Roberto Maroni. In questo quadro clamorosa è anche la giravolta di Formigoni, che si candiderà con Berlusconi, anche lui in un seggio sicuro al Senato. E questo in Italia, dunque, dove c'è un fermento prevedibilmente molto grande. Intanto in Francia ha suscitato molto scalpore l'indagine sul presunto conto segreto in Svizzera del ministro del bilancio. L'ipotesi di reato è di occultamento di frode fiscale. Jérôme Cahuzac, l'integerrimo e spigoloso ministro francese del bilancio, ha un problema. C'è il sospetto che abbia avuto per oltre 10 anni un conto segreto in una banca svizzera, chiuso appena prima di diventare presidente della potente commissione finanze della Camera. Vicenda imbarazzante per lui, l'uomo del fisco, ma anche e soprattutto per il governo e il presidente della Repubblica Hollande, che ha promesso ai francesi il massimo di correttezza, trasparenza, integrità. Cahuzac ha smentito e denunciato per diffamazione, ma i dubbi restano. La Procura di Parigi, forse su sollecitazione dello stesso governo dal quale dipende gerarchicamente, ha quindi deciso un'indagine preliminare, il reato ipotizzato e occultamento di frode fiscale, per stabilire se il conto è esistito o no e cercare di chiudere rapidamente il caso. Una vera spina nel fianco di Hollande, soprattutto in questo momento di durissime polemiche sulle sue supertasse. Marco Mussanè, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. Riapre il dibattito sul sovraffollamento delle carceri. Siamo tornati in Italia alla sentenza con cui la Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo ha condannato ieri l'Italia per trattamento inumano e degradante di 7 detenuti nel carcere di Busto Arsizio e in quello di Piacenza. Una sentenza che potrebbe finalmente segnare una svolta anche per motivi economici, spiega Giuseppe Rosso Di Vita, legale di 2 dei 7 detenuti risarciti. Lo ha intervistato Maria Luisa Pezzali. Abbiamo un timbro dell'Europa che ci dice che la situazione di violazione dei diritti umani dei detenuti è determinata da un problema strutturale. Quindi occorre risolvere questo problema strutturale delle nostre carceri e la Corte europea ci dà un anno di tempo come Stato, altrimenti poi saranno guai anche per le finanze dell'Italia, perché qui per 7 detenuti è stato riconosciuto un risarcimento per i danni morali di 100.000 euro, ma ci sono altri 550 ricorsi pendenti e molti altri ne continuano ad arrivare. Questo lo scrive la Corte europea proprio nella sentenza, Teoricamente ciascuno dei 67.000 detenuti italiani potrebbe rivolgersi alla Corte Europea e ottenere giustizia. L'Italia deve cambiare politiche in materia di detenzione, deve cambiare anche politiche in materia penale. Le 13:16 minuti nella prima parte del nostro GR abbiamo parlato dei consumi a picco di questo 2012, dello scorso 2012, l'anno peggiore dal dopoguerra. Migliorano invece i conti pubblici, ma con l'IMU, pressione fiscale quasi al 45%. Abbiamo parlato anche della campagna elettorale del PD, pronto alla collaborazione con Monti nel post-voto, e nel PDL c'è l'addio prevedibile di Mauro. Questa sera intanto Berlusconi torna in TV a Porta a Porta, mentre Bersani sarà ospite in giornata a Sky TG24. L'ultima novità che si intreccia con la campagna elettorale arrivata dal Tribunale di Milano, ne abbiamo parlato, la risposta delle magistrati donne tirate in ballo ieri da Berlusconi in TV, che hanno a Berlusconi risposto. Tra pochissimo parliamo dei 3 marinai italiani che sono stati liberati in Nigeria, parleremo anche di calcio con la Coppa Italia dopo la Lazio in semifinale stasera in campo, Juventus e Milan. Ancora una buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione, come avete sentito dunque sono liberi i 3 marinai italiani rapiti lo scorso dicembre. È festa un po' in tutta la Campania, regione di cui sono originari i 3 marinai liberati. Emiliano Starita, Salvatore Mastellone, Giuseppe D'Alessio, rispettivamente comandante, primo ufficiale e secondo ufficiale motorista del rimorchiatore Asso 21 dell'Augusta Offshore di Napoli. I 3 furono rapiti il 23 dicembre al largo delle coste della Nigeria, lungo una rotta inusuale, ha detto l'armatore Mario Mattioli, più lontana dalla costa del solito. La nave e il resto dell'equipaggio furono subito liberati. Loro 3 e un marinaio ucraino furono invece trattenuti dai pirati. A Roma, dove arriveranno nel pomeriggio, li riceverà subito il ministro degli esteri Terzi, molto soddisfatto per il positivo esito anche di questa trattativa diplomatica, detto a Sky TG24. È questo l'impegno assoluto che abbiamo, di non agire con azioni di forza che mettano a rischio eccessivo i nostri connazionali, e di agire sempre per le vie della diplomazia, del negoziato, del contatto e del lavoro attento e diligente, soprattutto nella direzione della sicurezza. Non paghiamo riscatti, negoziamo, ha aggiunto Terzi, facendo riferimento agli altri 30 italiani di cui è stata ottenuta la liberazione in quest'ultimo anno. Nessun pagamento, ha ribadito l'armatore dell'Augusta Offshore, Mario Mattioli. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E la nostra Laura Bettini poco fa ha proprio raggiunto l'armatore Mario Mattioli, appunto armatore dell'Augusta Offshore, per il quale questa non è la prima esperienza purtroppo con un sequestro. Nel 2011 un altro rimorchiatore rimase in mano a milizie libiche per oltre un mese. Come ci si sente quando questo accade e si viene necessariamente tenuti fuori dalle trattative? L'armatore l'ha spiegato così. Istintivamente mi sento una persona che così ha quasi le mani legate, però razionalmente in realtà chi opera invece mia opera con una professionalità e soprattutto con degli strumenti e con la disponibilità anche di avere persone sul posto che certamente io non ho, e quindi è stato anche estremamente utile avere un contatto diretto con le autorità, e quindi siamo stati a loro disposizione, ci siamo scambiati ovviamente tutto quello che poteva essere utile, diciamo, in questo caso, e soprattutto stare molto vicino alle famiglie dei ragazzi che erano in mano a questi rapitori, perché quello poi è un altro aspetto umano estremamente importante. 5.280.000 dollari per risarcire 71 ex prigionieri iracheni torturati nel carcere di Abu Ghraib e in altri centri di detenzione a conduzione americana in Iraq. È il primo caso in cui un'azienda privata americana ha accettato di patteggiare per chiudere la causa. L'azienda in questione è la Ingility Holdings, e c'è un'altra azienda di contractor civili che andrà a processo per un caso analogo in estate. La prigione di Abu Ghraib ottenne fama mondiale, probabilmente lo ricorderete, dopo la pubblicazione nel 2004 di una serie di foto di prigionieri iracheni umiliati e abusati dai secondini americani, uno scandalo che portò alla condanna di 11 soldati con pene fino a 11 anni di prigione. La ricerca dell'aereo scomparso venerdì allo Stroques con 4 italiani a bordo si è allargata anche alla terraferma. Parte oggi per Caracas un gruppo di esperti della Protezione Civile Italiana che forniranno assistenza e consulenza alle strutture venezuelane impegnate nelle ricerche. Los Roques è uno di quei posti dove gli unici rumori sono quelli del mare, del vento e dei gabbiani, dove sollevi le stelle marine dall'acqua, dove invece di un gattino puoi cullare una tartaruga. Per questo arcipelago corallino venezuelano, paradiso terrestre è la definizione più usata. Per raggiungerlo, a quanto pare, bisogna rischiare. Dopo l'ultimo incidente aereo che ha coinvolto i nostri concittadini, tra cui Missoni, si moltiplicano le testimonianze di chi dice di aver rischiato la vita su quei 160 km di mare che dividono Los Roques da Caracas. Tantissime anche Radio 24. Andrea Da Lucca. Questo aeroplanino cominciò a salire, si aprì lo sportello con le valigie che stavano uscendo, ma eravamo nel momento più difficoltoso e pericoloso, che è quello del decollo di un aereo. Piloti che parlano al cellulare durante gli atterraggi, aerei fatiscenti, benzina che finisce costringendo ad ammaraggi da incubo. Tra i tanti racconti da brivido, uno in controtendenza. Cristina da Como, nel paradiso terrestre, c'è già stata 4 volte e tornerà. Uno che va allo Los Roques lo sa che i voli sono questo tipo di voli. Me ne dispiace quando sento non andrò più là perché la sicurezza manca. Io ho sempre trovato dei grandi controlli, delle grandi sicurezze. Ho fatto 20 volte avanti e indietro e ho sempre riscontrato questo. Parla di fatalità e non di una meta da evitare anche Nardo Filippetti, il presidente di ASTOI, l'associazione tour operator italiani. È la disgrazia che ha colpito una famiglia casualmente, che poi oggi tutti quanti si ergono a dire: ah, ma io sono salito, ah, ma questo è rotto in giro per il mondo. Il piccolo non vuol dire sicuro o non sicuro. Che sia già successo 4 anni fa, proprio nella stessa data, può essere una concomitanza. Per noi è una destinazione, tra virgolette, sicura come altre. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La cronaca italiana da Capri, dove ieri è stata trovata morta in casa, in pieno centro, un medico radiologo. È indagato per abbandono di incapace, per non aver tempestivamente chiamato i soccorsi dopo aver visto che la radiologa versava in gravi condizioni a causa di un'emorragia. L'amico coetaneo di Anna Francesca Scarpati, il medico 51enne trovata morta ieri a Capri in circostanze non completamente chiarite nella sua abitazione di via Camerelle. La salma della donna è partita questa mattina con il primo traghetto ed è stata trasportata all'Istituto di Medicina Legale del Nuovo Policlinico, dove venerdì mattina sarà eseguita l'autopsia, ritenuta fondamentale dagli inquirenti per stabilire le cause della morte della radiologa napoletana, che stava trascorrendo nella casa di Capri un periodo di vacanza insieme all'amico. L'uomo, ora indagato, era sbarcato a Capri insieme a lei per trascorrere le vacanze di fine anno ed è stato ascoltato a lungo negli uffici del commissariato di polizia dal magistrato giunto sull'isola insieme alla polizia scientifica. L'autopsia dovrà stabilire anche l'ora della morte per consentire agli inquirenti di delineare l'impianto accusatorio ed accertare eventuali altre responsabilità. Paolo Picone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. 36 avvisi di fine indagine sono stati notificati dai carabinieri di Bari al termine del filone di indagine della procura pugliese sul calcio scommesse. Tra i destinatari 27 calciatori in attività ed ex calciatori. Il reato contestato è di concorso in frode sportiva. E poi c'è il calcio giocato e la Lazio è la prima semifinalista di Coppa Italia. Ieri sera i biancocelesti hanno superato 2-0 il Catania e ora aspettano la vincente di Juventus-Milan di questa sera. Mette un bel po' di pepe alla stagione, non solo alla Coppa Italia, il gustoso Juventus-Milan di stasera. Gara secca senza appello che già l'anno scorso regalò emozioni e gol e alla fine la qualificazione ai bianconeri solo ai supplementari. In più è il momento che conta. La vecchia signora, fresca del sorprendente KO interno con la Sampdoria e alle prese con infortunati eccellenti, si scopre vulnerabile e Conte ammette che la tentazione Drogba l'ha avuta. A mancare non la voglia di avere un top player, ma i soldi. È inevitabile che il direttore sondi la situazione. Poi in base alle risorse economiche, in base alle disponibilità, in base alle risposte, valuta. In casa Milan Berlusconi ha riacceso il tormentone Allegri, allenatore che mai gli è stato nel cuore, neppure nell'anno dello scudetto, figurarsi adesso. Lui tira dritto e pensa a portare a casa i risultati, magari a partire già da stasera. Ho un contratto fino al 2014, intendo rispettarlo e in questo momento sono concentrato su quello che dobbiamo fare per cercare di ottenere il massimo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questa edizione, curata e condotta da Anna Rita D'Ambrosio. Grazie regia a Paolo Corleone, il GR torna alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.